cantaré, la mia vita esaltaré a ti, Signore. Tu eres digno di louvor, digno di adoração, digno di exaltação, nosso Senhor. Aleluia! Hey!